signor Cristoforo Colombo che la terra fosse tonda sospettò, e così per scoprire un nuovo mondo alla corte di Spagna si recò. Lo disse alla regina, lo disse pure al re, il quale una mattina lo disse ad altri tre. E di tutti venuti a Salamanca, seduti su una panca, lo stettero a sentir. Voglio scoprir l'America, New York e il Dixieland, la gomma che si mastica a tempo di jazz band. Voglio scoprir l'America, il gioco del baseball, i gamesters che passeggiano con mitra d'arma col. Finalmente incontrerò Jesse il bandito, pranzerò con Shanghai Lil, con il capo degli Sioux toro seduto e col grande Buffalo Bill. Voglio scoprir l'America, non ditemi di no, tre caravelle datemi, io ve la scoprirò. Affannò Cristoforo Colombo, ma quei dotti che lo stavano a sentir, certi che non ci fosse un nuovo mondo, lì per lì non lo vollero capir. Lo seppe la regina, lo seppe pure il re, e l'indoman mattina lo seppero gli altri tre. E così ritornato a Salamanca, ai dotti sulla panca, Colombo ancor parlò. Voglio scoprir l'America, la Marilyn Monroe, la donna supersonica che l'atomo spezzò. Vive laggiù in America la bella Marilyn, che anche già sai più morbida di un ritmo medium swing. Ha più curve di una strada di montagna, chi la vede può impazzir. Figuratevi signori che cuccagna, se io la potrò rapir. Se scoprirò in America la Marilyn Monroe, signori miei, contateci, qui ve la porterò. E di dotti saliti sulla panca, muovendo un poco l'anca, vi dissero di sì.